Il sito delle storie presenta Senza te di Riccardo Mini, prima parte. Il giorno in cui Daniela ha scoperto che suo marito Franco aveva un amante era un lunedì 23 aprile. La temperatura minima era di 17 gradi, la massima di 29. Però, nonostante il caldo, già dal primo pomeriggio avevano cominciato ad addensarsi nel cielo le nuvole che poi la sera avrebbero portato quel brutto temporale. Il giornale ne parlava, diceva che doveva venire brutto, e per una volta le previsioni erano esatte. Ma per tutta la mattina c'era stato un gran sole, sembrava estate. Per questo, quando lei aveva detto a Franco: «Guarda un po' il giornale, dice che stasera viene brutto, dice che c'è il temporale, che fai, parti lo stesso?» Lui aveva risposto: «Ma quale temporale? Non vedi che c'è il sole?» E in effetti aveva ragione, ma aveva ragione anche lei. L'amante si chiamava Sara. Lei e Franco si vedevano da quasi un anno, ma siccome lui viaggiava spesso per lavoro, per i primi mesi Daniela non aveva sospettato nulla. A volte Franco diceva che partiva, ma in realtà rimaneva in città e si fermava dall'amante per qualche giorno, poi tornava a casa. Daniela non faceva fatica a vederseli insieme. Anzi, se chiudeva gli occhi, non vedeva altro. Stranamente, non li aveva mai immaginati nell'atto di fare l'amore, forse perché quel pensiero le era troppo doloroso. Però se li vedeva un attimo dopo, a letto, quando lui si infilava un calzino e cominciava a rivestirsi, mentre Sara, ancora svestita, la pelle calda dell'odore di lui, si accendeva una sigaretta. Non che l'avesse mai vista, e non sapeva se fumava, ma chissà come se l'immaginava sempre nell'atto di accendersi una sigaretta. Forse per quello che un amante in fondo rappresenta, ovvero la trasgressione, il vizio, l'infrazione della regola. Quando Frank è uscito per andare all'aeroporto, Daniela si è seduta su una sedia e si è messa ad aspettare. Ha visto il sole andare via, poi è arrivato il vento, la temperatura è scesa e Daniela è andata nell'altra stanza a prendere un maglione. Mentre passa, nota sul comodino del marito l'agenda su cui lui segna tutti gli appuntamenti di lavoro. Ecco un'altra prova, se ancora ce ne fosse bisogno. Non si parte per un viaggio d'affari senza l'agenda degli appuntamenti. E se veramente l'avesse dimenticata, sarebbe già tornato indietro a prenderla. Daniela la apre al giorno di oggi, lunedì 23 aprile. Ci sono scarabocchiate e parole incomprensibili, e poi alle ore 19 aereo Malpensa. Il che non significa nulla. Potrebbe esserselo scritto per non tradirsi con la moglie. Daniela torna a sedersi con l'agenda ancora in mano. Il cielo si copre di nuvole nere, rabbuiando ogni cosa. Ma lei non accende la luce, perché sta aspettando. Cominciano i lampi, con il rumore dei tuoni sempre più vicino. E quando si mette a piovere sembra che non debba più smettere. Daniela accende la radio, e al notiziario dicono che a causa del temporale molti voli da Malpensa sono stati cancellati. Poi finalmente squilla il telefono. E lui, a calzemi, chiama per dire che li ha trovati. Daniela fa un profondo respiro, poi gli chiede di passarla a prenderla e portarla da loro. Calzemi tenta di protestare. «È sicura di volerli vedere?» «Certo che sono sicura. Guardi che piove a dirotto. Lo so, me ne sono accorta.» «D'accordo allora, si prepari che passo a prenderla.» Daniela si prepara, si infila un paio di pantaloni pesanti e gli stivali impermeabili. E quando Calzemi citofona, ha già addosso il cappotto ed è seduta ad aspettarlo. Prima di uscire prende la borsetta e inavvertitamente ci infila dentro l'agenda del marito, che senza accorgersene tiene ancora in mano. Calzemi l'aspetta col motore acceso. Appena entra in macchina, Daniela nota lo sguardo di lui, è uno sguardo di desiderio, e questo le piace, sente che ne ha bisogno, perché nella scala delle cose del mondo, in basso, agli ultimi posti, ci sono le suole delle scarpe, l'asfalto, la terra nuda, poi più sotto le fogne, e poi giù, giù, ancora più giù, l'autostima delle mogli tradite. Viaggiano in silenzio, fino all'altra parte della città. Piove di rotto e non si vede niente, le strade sono già allagate. Come al solito, quando piove, sembra che il traffico si moltiplichi e si procede lenti a passo d'uomo. Calzemi, nell'autoradio, ha una cassetta di Baglioni. A lei non piace, ma non chiede di spegnere, perché la musica è un modo come un altro per non dover parlare. Calzemi non ha nulla che assomiglia a un investigatore privato. Ascolta Baglioni, quando parla arrossisce, guarda sempre per terra come se cercasse delle monetine, insomma sembra un impiegato. Però costa poco, e a quanto pare il suo lavoro è riuscito a farlo, perché li ha trovati. «Ecco, siamo arrivati», dice a un certo punto, accostando la macchina in seconda fila. Aspettano quasi 10 minuti prima che si liberi un posto, poi lui parcheggia, spegne il motore e anche la radio. Dal finestrino si vede la vetrina di un ristorante. Sono lì. È tutto quello che dice Calzemi, puntando il dito verso il ristorante. Daniela guarda. Proprio dietro la vetrina, sedute a un tavolo per due, Franco e Sara stanno mangiando. Mangiano in silenzio, guardando ognuno nel proprio piatto. Daniela è sorpresa. Sembrano una coppia qualsiasi, addirittura una coppia sposata. E non stanno ridendo. Daniela si era immaginata che quando uno è con l'amante debba ridere sempre perché è felice, perché ha trovato nel tradimento quell'emozione vitale che a casa ormai è scomparsa. Invece, a quanto pare, non è così. Sara è carina, ma non bellissima. Ha l'aria sciupata e stanca, e non è neanche così giovane. Lei e Daniela potrebbero avere più o meno la stessa età. Calzemi allunga verso Daniela un fazzoletto bianco. «Sta piangendo, tenga», dice e arrossisce. «Non sto piangendo, è la pioggia». «Mi scusi», risponde lui, e ritira la mano. È imbarazzato e non sa cosa fare. «Vuole sentire un po' di musica?» Senza aspettare la risposta, accende la radio. Parte «Senza te» di Baglioni, la canzone che fa «Levi questa canzone», dice un tratto seccamente Daniela. «Certo, mi scusi, certo», obbedisce lui e spegne subito l'autoradio. «Mi riaccompagni a casa, per favore?» Calzemi aspetta un po' a rispondere, poi dice «No, meglio di no». «Come ha detto?» «Tornare a casa adesso non è una buona idea, tutto le ricorderebbe lui e sarebbe sola con i suoi pensieri. Mi dia retta, aspetti qualche ora». «E cosa dovrei fare, andare in giro sotto la pioggia?» «Se vuole possiamo andare a berci qualcosa insieme, provare a distrarci. Poi la riaccompagno io se vuole». Daniela guarda ancora verso la vetrina. Il cameriere ha portato via i piatti. Franco allunga una mano verso quella di Sara, le loro dita si intrecciano. E a questo punto si sorridono. «D'accordo», dice Daniela, distogliendo lo sguardo. Trovano un bar poco lontano. Daniela è talmente tesa che appena entrano ha la sensazione che tutti si voltino a guardarla e sappiano tutto di lei. Sono anni che non va in un locale da sola con un uomo che non sia suo marito. L'alcol, per fortuna, le fa bene. Se anche non le cambia umore, almeno le rallenta i pensieri e la rabbia. Beve un cocktail, poi, prima che abbia finito, Calzemi gliene ordina subito un altro. Anche a lui l'alcol sembra faccia bene. Non guarda più soltanto per terra. Quando parla non arrossisce, si fa più audace, insomma non sembra più un impiegato. Le racconta di sé, del fatto che questo per lui è un lavoro temporaneo, non vuole passare il resto della vita a fotografare di nascosto le coppie che fanno l'amore. Il suo sogno è fare il detective, indagare sulle truffe, gli omicidi, consegnare i criminali alla giustizia. Lei lo ascolta con la testa appoggiata sulla mano e il gomito sul tavolo, perché una volta Franco le ha detto che così è più carina. All'uscita, che ore saranno? Ormai ha perso il conto del tempo. Prima di salire in macchina, lui le propone di andare a dormire da lui. Poi si affretta ad aggiungere che è sempre per via del fatto che tornare a casa può essere doloroso, ma lei lo interrompe. La testa le gira e a questo punto non sa più quello che dice. Gli risponde solamente «Portami dove vuoi». Poi si siede, appoggia la testa al poggiatesta e chiude gli occhi per non vedere le cose che continuano a girarle intorno. Calzemi abita in una casa piccola, ma ben tenuta. Quando arrivano le offre qualcosa da bere, che lei rifiuta, poi si siedono sul divano, lui comincia ad accarezzarle i capelli e a dirle che la trova molto bella. Ma non succede nient'altro. Lei si accorge d'un tratto che il giramento di testa le è sceso drasticamente nello stomaco e ha appena il tempo di chiedere dov'è il bagno prima di sentire i due cocktail che cominciano a salire. Corre a chiudersi in bagno e vomita. Lui è fuori dalla porta, continua a chiederle se va tutto bene, poi si sente suonare il campanello di casa. Lui va ad aprire. Dal bagno Daniela lo sente parlare con qualcuno. «Con chi parlavi?» chiede a Calzemi una voce di donna, probabilmente la stessa che ha suonato alla porta. Si sente il rumore di una valigia a rotelle che entra in casa. Daniela si guarda in giro nella stanza da bagno, vede due accappatoi appesi al gancio, due spazzolini nel bicchiere sul lavandino e vicino allo specchio un completo per il trucco. «Come mai sei già tornata?» chiede Calzemi nell'altra stanza. La voce di donna sembra seccata. «Non hai visto il telegiornale? Hanno cancellato tutti i voli per la pioggia. Sono fradicia, voglio fare una doccia e andare a letto. Aspetta, non vuoi prima qualcosa da mangiare? Ti posso preparare un brodino? Qualcosa? Vieni, portiamo la valigia di là». Daniela sente le due voci che si allontanano. Socchiude lentamente la porta del bagno e guarda fuori. Non c'è nessuno in vista. La porta d'ingresso è rimasta semichiusa. In punta di piedi, Daniela raggiunge la porta, toglie il cappotto dall'attaccapanni ed esce. Le due voci stanno ancora discutendo, sempre più animatamente. Daniela si sente improvvisamente lucida, senza nessuna traccia della sbronza di poco prima. Raggiunge il portone ed esce in strada. Ha smesso di piovere e l'aria fresca l'aiuta a risvegliarsi, la riporta a se stessa. «Che ore sono?» «Le 10:15. Chissà perché, pensava fosse più tardi.